Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? Non potevamo non iniziare con un omaggio al premio Nobel della letteratura di quest'anno, è vero, Bob Dylan. Esattamente, nel corso della trasmissione naturalmente anche Cuore e Denari non potrà che rendere omaggio anche a Dario Fo, lo faremo a modo nostro naturalmente agganciando una sua performance teatrale ad uno dei temi che approfondiremo nel corso della trasmissione. Proprio questa mattina peraltro si è aperta la Camera Ardente al Piccolo, domani ci saranno i funerali qui a Milano sotto questa pioggia battente, chissà che confusione a Milano, questo è stato il mio primo pensiero, Nicoletta. Sì, è vero, non voglio pensarci, ma probabilmente molti dei nostri ascoltatori andranno a rendere omaggio al grande Dario Fo, e i giornali oggi non mancano di ricordare il menestrello, il giullare. Voi avete qualche ricordo particolare che vi lega a questi due personaggi? Scriveteceli al 349-238-6666 o via WhatsApp, oppure chiamate il nostro numero verde. Noi intanto sì. Tutto bene, rientro da Roma peraltro, siamo conciate come due stracci da buttare via stamattina. Sì, io penso che chi entra nello studio sicuramente esce con l'influenza, che tra l'altro sembra quest'anno particolarmente cattiva. Sai che io non torno mai a mani vuote. Già. Sono tornata con una promessa, e cioè che per tutto il mese di ottobre gli oculisti della IAPB Italia Onlus saranno a disposizione degli ascoltatori di Cuore Denari, naturalmente anche dei loro amici, dei loro familiari. Porta un amico a Cuore Denaro. Quindi se avete domande, dubbi, avete bisogno di un consiglio, scrivete a cuoredenari@radio24.it oppure andate sul sito della IAPB Italia Onlus e troverete tutte le indicazioni, compreso il calendario dei vari spostamenti delle unità mobili che avvicinano proprio le persone, per dare modo a chi l'oculista non l'ha mai frequentato di sottoporsi a dei controlli. Fare questo primo incontro della sua vita. Un incontro ravvicinato con l'oculista può salvare la vista. Allora, intanto, sperando di darti altrettanta soddisfazione, cara la mia Nicoletta, io ti regalo qualche notizia di denari. Partiamo. La borsa stamattina molto positiva, partita un po' più incerta, invece adesso il quadro è cambiato, c'è un rialzo di un punto a Parigi, Francoforte più 0,8, Londra più 0,56, Milano più 0,90%, ieri c'è stata maggiore indecisione fra listini internazionali a causa di questo dato che ieri mattina presto era arrivato dalla Cina sulla bilancia commerciale di settembre e le esportazioni che sono crollate del 10% in misura nettamente superiore alle attese. Poi insomma un po' la preoccupazione è stata messa da parte nel corso della giornata e oggi si ritornano appunto a piene mani gli acquisti che a Milano, neanche a dirlo, riguardano ancora una volta i titoli bancari. Ci sono un po' di notizie sul settore, Pop in Milano e Banco Popolare ormai l'integrazione è sempre più vicina, i titoli guadagnano rispettivamente il 5% e il 3%, peraltro per il Banco Popolare stamattina c'è anche una cessione di un corposo pacchetto di crediti appunto in sofferenza, oltre 600 milioni di euro, e quindi anche questo spinge il titolo. UbiBanca oggi riunisce l'assemblea straordinaria degli azionisti, più 3,65% per il titolo, Pop Emilia Romagna più 3, ieri era andata molto male per la Galassia Unipol, oggi i titoli recuperano di circa 2,5 punti. Chi abbiamo invece in negativo? STM meno 0,28, Ferrari meno 0,23, Terna meno 0,14%, Recordati meno 0,11. L'euro è a 1,10,16 sul dollaro, il petrolio a New York è a $51 al barile, a Londra è a 52,37. E a proposito di temi finanziari, allora Nicoletta, tu ieri non c'eri, ti racconto che cosa ci è successo in diretta. Parlavamo di investimenti sempre, ben differenziati, diversificati. Un ascoltatore ci ha raccontato e chiedeva così un commento sul suo portafoglio di avere fondi azionari che puntano sulle economie di mezzo mondo, fra cui azionari emergenti, in particolare esposti sul mercato indiano. A sentire India, un altro ascoltatore si è subito un po' innervosito, inalberato e ha scritto: «Io vi scrivo spesso, ma la questione etica non la affrontate mai. In questo attuale mondo non si può prescindere da questo. Un fondo che investe in India, ma che regole rispetta? In quali aziende investe?» E allora noi abbiamo fatto questa riflessione. Etica e finanza sono sempre stati considerati, no, due termini completamente contrapposti. Nel mondo della finanza l'etica non ci può stare. Questo almeno è il giudizio o il pregiudizio che c'è da parte di molti. Eppure esiste un'etica del comportamento dei professionisti della finanza in un ambiente che è frequentato, a giudizio di molti, particolarmente da squali, e molti ne fanno un connotato assoluto del proprio lavoro. Poi ci sono anche gli investimenti di carattere etico, puntare su certe storie, su certe aziende, certi mercati e non altri. Il mondo della finanza etica è in crescita, ne abbiamo un esempio molto noto, anche se non noto abbastanza, forse in Italia, che è quello di Banca Etica. Ecco perché proprio domani, ne vogliamo parlare oggi, perché proprio domani parte il mese della finanza etica, 100 iniziative per far crescere il credito all'economia sostenibile, quindi vogliamo farci raccontare tutto da Ugo Biggeri, presidente di Banca Popolare Etica. Buongiorno presidente, benvenuto. Buongiorno. Tutto bene, come sta? Molto bene, grazie. Pronto a partire con questo mese intenso di tantissime iniziative sul territorio. Siamo anche sorpresi, perché noi abbiamo 70 gruppi locali di soci in Italia e così spontaneamente le iniziative sono già diventate 100, quindi mi sembra un buon segnale. 100 iniziative, dicevamo, in tutta Italia per raccontare che la finanza etica funziona, che vuole crescere ancora di più con il rafforzamento del capitale sociale. Diciamo anche che, a prescindere da tutte le iniziative di divulgazione ed educazione sui temi della finanza che farete in giro per l'Italia, presidente, c'è anche un po' l'obiettivo appunto di incrementare il vostro capitale sociale, quindi andrete a caccia di soci e socie. Ma certo, Banca Etica lo fa da sempre, siamo stati la prima banca popolare italiana a fare un prospetto informativo per tutti i soci per il collocamento di capitale, e lo facciamo perché continuiamo a crescere con il credito, avere basse sofferenze e avere domande di intervento della finanza etica, quindi lo facciamo perché siamo solidi e ci piace poter rispondere di più a quello che i cittadini e le realtà imprenditoriali ci chiedono. Certo, voi per farvi conoscere generalmente utilizzate proprio queste iniziative, andate sul territorio, molte campagne di educazione finanziaria secondo il vostro modo di vedere naturalmente la finanza, ma per chi non vi conoscesse ancora, perché voi per esempio respingete con grande forza le campagne di marketing pubblicitarie come quelle che conosciamo noi, per farvi conoscere anche fra chi ancora non ha avuto modo mai di confrontarsi con il vostro modello, che cosa fa e che cosa non fa assolutamente Banca Etica, presidente? Banca Etica cerca di rispondere a una domanda solo apparentemente banale, che è quella di dove sono i soldi dei cittadini. Lo fa nella banca, mettendo sul sito di Banca Etica tutti i finanziamenti alle persone giuridiche che facciamo su www.bancaetica.it, lo fa con la società di investimento fondi comuni, che è Etica SGR, attraverso una policy pubblica sulle realtà in cui investiamo e in cui non investiamo. Ad esempio, non si investe nel settore petrolifero perché i cambiamenti climatici sono un tema che interessa molto i nostri investitori. Tra le altre cose, non elargite, questo lo dite sempre con grande forza, maxi bonus ai vostri manager, quindi lei, presidente, uno stipendio normale, niente bonus. Sì, io ho uno stipendio che io costo alla banca la metà del direttore generale. Il direttore generale ha uno stipendio che non è più alto di 4 volte di quello dell'impiegato che guadagna meno. Sono scelte che a volte sembrano impossibili, ma poi nella realtà si possono fare perché c'è anche un'altra soddisfazione oltre a quella economica, che è la soddisfazione di poter rispondere ai cittadini su dove vanno i soldi e soprattutto di finanziare cose utili a un buon futuro del mondo con i soldi che ci vengono affidati. Ad oggi, presidente, quanti sono i vostri clienti / soci? Guardi, nel gruppo siamo quasi a 200.000, nella banca ne ha 70.000 e l'Etica SGR invece ne ha. Esatto, perché avete anche la società di gestione del risparmio, e quindi magari una volta la invitiamo, presidente, per raccontarci come confezionate le vostre soluzioni di investimento appunto per i risparmiatori che scelgono di sottoscrivere i vostri fondi. Molto volentieri. Un'ultima considerazione, poi dobbiamo andare al prossimo approfondimento. Fra tutte le iniziative che farete in questo mese ce ne vuole segnalare qualcuno in particolar modo a cui tiene e dove possiamo trovare tutte le informazioni su questo mese della finanza etica, in modo tale che magari i cittadini sul territorio possano venire a seguire qualche evento. Sì, le iniziative appunto sono tante, si va dal teatro agli incontri pubblici, ai giochi sulla finanza etica, si trovano sul sito www.bancaetica.it. A queste iniziative si è aggiunta anche qui una sorpresa positiva, due disegni di legge presentati in Parlamento per riconoscere la finanza etica, perché anche la politica si è resa conto che la finanza etica contribuisce a portare finanziamenti all'economia reale. Certo. Quindi insomma di cose da approfondire ce ne sono tante. Ecco, abbiamo finito tra l'altro con un collegamento telefonico qualitativamente parlando sempre in discesa, però insomma il succo del discorso lo abbiamo sentito. Grazie al presidente di Banca Etica. Buona giornata. Ugo Biggeri di Banca Popolare Etica. Peraltro tra le varie iniziative mi piacerebbe segnalare questa. C'è un corso di educazione critica alla finanza, si terrà a Mantova con la proiezione anche del film La Grande Scommessa, e qui in sostanza si parlerà anche della figura dei risparmiatori. Con due T, perché dobbiamo essere attori protagonisti delle nostre scelte finanziarie, Nicoletta. E della nostra salute, ecco, vedi che di nuovo ci intrecciamo come due serpentone. Dove andiamo adesso? A sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritornate di nuovo subito con noi, a tra poco. Cuore e denari. Silenzio, faccia sparare. Fuoco! Ma dico, ma siamo impazziti adesso? La Rai spara anche. Voi siete impazziti. Questa è la sigla di una famosa canzonissima di 20 anni fa. Certamente, che ora si chiama Fantastico. Quella dello spettacolo censurato, bloccato, cancellato. Sì, che avete tenuto nascosto, anzi seppellito per la bellezza di 25 anni. Mi pare che adesso sia arrivato il momento di ritirarlo fuori, no? Uno sketch del 1988, questo in cui Dario Fo e Franca Rame facevano un chiaro riferimento a quanto accaduto in Rai molti anni prima, nel 62, quando alla coppia era stata affidata la conduzione di Canzonissima, però i due abbandonarono il programma dopo 7 puntate a causa dell'ennesima operazione di censura dei testi di Foro. Sketch su un costruttore edile che si rifiutava di dotare di misure di sicurezza la propria azienda, fu considerato eccessivamente provocatorio dai dirigenti Rai dell'epoca. Nicoletta, pensa che tempi, eh? Esatto, questo è stato il nostro modo, ve lo anticipavo già prima, di ricordare e omaggiare un grande che ci ha lasciati ieri. Oggi a Milano lo ricordiamo, la Camera Ardente al premio Nobel, del premio Nobel per la letteratura. È un ricordo che, a proposito di Rai, si ricollega perfettamente al nostro prossimo tema di Cuore Denari. Dove eravamo rimasti? E oggi ce lo chiediamo a proposito di un tema che continua ad avere punti bui e del tutto sconosciuti per i contribuenti, il canone Rai, appunto. Allora, questi quesiti, punti, che più si risolvono e più sembrano nascere. Adesso pare esserci una nuova scadenza importante, perché entro il 31 ottobre sarà meglio, per chi non se l'è ancora visto addebitare dall'azienda dell'energia elettrica in bolletta, provvedere al pagamento di sua spontanea iniziativa. Quindi non fate finta di niente, se l'azienda dell'energia elettrica non ve l'ha addebitato, appunto, dovete in realtà farvi avanti e andare a pagarlo. Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci qua, un'altra bella notizia anche questa mattina. Le pongo la nostra domanda di rito. Dove eravamo rimasti allora con il canone Rai? L'addebito in bolletta sta arrivando a gran parte dei contribuenti italiani che hanno la televisione in casa. Quelli che hanno potuto dimostrare di non avere il mezzo si sono autocertificati e non stanno pagando, naturalmente. Ma chi invece dovrebbe pagare, ma l'azienda dell'energia e della luce si è dimenticata di, appunto, addebitare? Che succede? Allora, in questo caso è meglio assolutamente pagare, nel senso che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che in caso di mancanza di colpa, causa non imputabile all'utente, non si procede all'applicazione di sanzioni e interessi, nei casi in cui appunto la tardività non dipende dal consumatore. Però il problema è che non si è chiarito quando è colpevole o meno l'utente del ritardo. Ovviamente se uno non ha ricevuto fino adesso dall'impresa elettrica il canone, ovviamente non è colpevole, però fino a quando? Fino al 31 ottobre, fino a fine anno, se non lo pago più per tutta la vita. Perché qualcuno ovviamente ci proverà pure, no? A far finta di nulla. Ecco, però il problema è che vale sempre la sanzione da 2 a 6 volte il canone, quindi da 200 a 600 euro, ovviamente se l'Agenzia delle Entrate procede ad un accertamento. Certo. Quindi in questo caso noi diciamo assolutamente pagate entro il 31 ottobre, perché l'Agenzia delle Entrate sul suo sito, non in, con un provvedimento, ma stabilisce che se non si è ricevuto il canone in bolletta, bisogna sollecitare la società elettrica, eccetera, ecco, eccetera, dopodiché procedere con pagamento con modello F24, un'unica soluzione, tutti 100 euro. Quindi ribadiamo, Antonelli, il contribuente assolutamente virtuoso che si vuole mettere in regola e sta lì fibrillando ed è preoccupato perché non ha ricevuto la rata in bolletta, comunque l'addebito corretto fino a questo momento, perché noi abbiamo avuto il salasso a luglio di 70 euro che comprendeva tutti i primi 7 mesi dell'anno, adesso stanno arrivando 10 euro al mese circa, quindi per le bollette bimestrali 20 euro a bolletta. Per chi appunto si è accorto che fino ad ora non ha pagato nulla, i passi da fare quali sono? A quale porta deve bussare? A quella della RAI, dell'Agenzia delle Entrate o dell'azienda elettrica? Deve pagare da nessuna parte, deve praticamente a questo punto muoversi da solo, prendere il modello F24 e compilare. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate ci sono addirittura i modellini già precompilati per far vedere come bisogna compilarlo, perché poi ovviamente ci sono dei codici differenti a seconda che sia una nuova utenza, il codice tributo, certo, come si dice, se sia rinnovo abbonamento o un nuovo abbonamento. Diciamo che ci sono dei casi che erano già noti. Esatto, quindi chi è che teoricamente è stato dimenticato così un po' da tutti e allora, non diciamo, sta pagando? I casi noti erano le isole non interconnesse, quindi Lampedusa, eccetera, eccetera, Pantelleria, quelli lo sapevano già. Dovevano pagare comunque entro il 31 ottobre, in unica soluzione, tutti quelli che non avevano l'utenza elettrica, quando nessun componente della ferita la luce. Voi direte com'è possibile? È possibile, per esempio, l'inquilino quando la luce è intestata al proprietario. Allora, in questi casi molti si sono messi d'accordo con il proprietario, però non è la soluzione ideale. No. Specie se l'inquilino era già abbonato per quanto riguardava il canone RAI, ovviamente c'è il rischio che poi qualcuno gli mandi un sollecito e gli dica come mai non hai pagato. E quindi in questo caso era meglio che il proprietario facesse la dichiarazione per pagare una volta sola e l'inquilino pagasse in unica soluzione, perché molti proprietari affittano per pochi mesi e quindi non stanno a fare la voltura. Certo. E quindi in questo caso l'inquilino dovrebbe pagare con questa soluzione. Case multifamiliari dove magari c'è un solo contatore ma abitano più famiglie, i genitori, i figli, i nonni, gli zii e quant'altro. Anche in questo caso bisogna pagare i bidelli, i portieri, dove ovviamente la luce è intestata al condominio e così via. Insomma, la casistica è molto ampia, anche un po' complicata, le situazioni sono estreme, ma sempre meglio farsi avanti, perché poi tanto ci scovano e poi bisogna pagare le sovrattasse, Antonelli. Quindi è meglio autodenunciare queste situazioni piuttosto che, oppure, non lo so, adesso non possiamo suggerire di rischiare. Di sicuro voi avete fatto una cosa originale, avete suggerito alla RAI di far dare queste informazioni alla fine dei telegiornali. Ah sì, perché vi ricordate quando fino a marzo ci disturbavano dicendo potete pagare con una piccola sovrattassa, cominciavano da gennaio e finivano a marzo. Ricordo bene, un tormentone. Esatto. Adesso, con una piccola sovrattassa, vi ricordo che è possibile pagare l'abbonamento, esatto, RAI. Esatto. Da parte del fatto che c'è un voto normativo su questa piccola sovrattassa, nel senso che nei primi 30 giorni, il famoso diciamo così febbraio, in realtà sarebbe un ventesimo del canone RAI, e quindi nella fattispecie 5 euro. A marzo era in realtà un decimo del canone RAI, quindi 10 euro, poi diventa nei successivi 60 giorni un quinto del canone RAI, quindi in questo caso 20 euro. Il problema è che la norma, il Regio Decreto del 38, fa ancora riferimento per questa sovrattassa al pagamento al 31 gennaio, quindi in realtà adesso è arbitrario, diciamo, stabilire che va pagato da ottobre piuttosto che da novembre, lì dovrebbe intervenire il legislatore. Lo so. Interverrà, speriamo. Antonelli, perché sì, fa pure l'ironia, capito? Antonelli, dopo. Grazie, perché lei è veramente una macchina da guerra su questo argomento. Allora, noi abbiamo tante domande degli ascoltatori, gliele giriamo tutte. E quindi lei cortesemente farà il nostro sportello informazioni. Rimarrà senza parole. Esatto. Intanto noi invece le parole le lasciamo pronunciare ai colleghi del giornale radio, ma noi torniamo subito dopo. Sono Giorgia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giorgia Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck. Sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... L'impressionismo di Zan Domenechi. In mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. Anche tu ami l'indagatore dell'incubo. Raccontaci perché con una mail a dylandog@radio24.it e potrai ricevere in regalo una copia di Dylan Dog Diary. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Ogni sabato alle 15 su Radio 24. Cuore e denari. Fuoco, acqua, elettricità. Fuoco, acqua, elettricità. Hai pagato tutto? Sei in regola con le bollette? Speriamo di sì. Eccoci. Allora, speriamo, vai a controllare quella della luce per vedere se ti è stato addebitato l'importo mensile per il pagamento del canone RAI. Se no, tocca fare l'F24, come ci ha spiegato prima Mauro Antonelli di Unione Nazionale. E di corsa. Consumatori. E anche un po' di corsa, esatto. Sotto la pioggia di oggi, così un po' Rambo, più difficile che mai. Allora, fuoco, acqua e elettricità. Rimaniamo un po' sul tema bollette e ci concentriamo su elettricità e gas per parlare di bollette nei prossimi minuti di Cuore Denari, prima di passare appunto la parola agli argomenti di cuore che oggi ci piacciono, mi piacciono a me sempre, ma oggi particolarmente perché c'è un ospite top di gamma. Non dico niente, va bene, manteniamo un po' di mistero. Allora, c'è un'opportunità in materia di bollette di cui si parla probabilmente troppo poco a quanto pare, anche se noi abbiamo fatto tante puntate, al punto che solo una percentuale minoritaria di chi potrebbe approfittare di questa opportunità per l'appunto lo fa, e ci riferiamo agli sconti su elettricità e gas, o meglio identificate come bonus sociale ed elettrico. Allora, questa mattina noi abbiamo praticamente messo a nostra totale disposizione, anzi l'Unione Nazionale Consumatori ha messo a nostra disposizione tutti gli esperti che ha, perché prima abbiamo avuto Antonelli, adesso invece c'è disponibile per noi Marco Vignola, che salutiamo, buongiorno, esperto di questo argomento. Buongiorno Vignola. Eccoci qua. Per cui vogliamo un po' riepilogare tutti quei requisiti che è necessario avere per poter avere questo sconto in bolletta. Noi in passato, appunto, come ricordavo, ne abbiamo parlato tante volte anche proprio con la diretta interessata che eroga questo bonus all'autorità del gas e dell'energia, ma a quanto pare, siccome come dire, anche le persone, le famiglie che potrebbero usufruirne appartengono proprio un po' a quelle categorie sociali un po' marginali, allora abbiamo capito che bisogna fare una campagna di divulgazione ancora più forte. Per cui anche come Radio 24 e Cuore Denari ci siamo messi a disposizione per questo. Allora, Vignola, ricordiamo di che cosa si tratta e quali dati dimostrano che se ne parla poco, perché non tutte le famiglie che potenzialmente ne potrebbero essere destinatarie ne fanno richiesta. Sì, allora, innanzitutto il bonus sociale elettrico e gas è di fatto un aiuto in bolletta alle famiglie bisognose, cioè quelle famiglie che hanno un indicatore ISEE che rientra nei parametri previsti dall'autorità. Di fatto quindi è uno sconto in bolletta che cambia a seconda della numerosità del nucleo familiare oppure delle condizioni di fornitura gas e viene suddiviso in bolletta per tutte le bollette che noi riceviamo durante l'anno. No, stavo intanto ragionando un po' se è il caso di farle ripristinare il collegamento telefonico, Vignola, stavo così controllando un po' lo sguardo della regia di Carmelo e di Marco Lombardo. Che cosa dite, ci riproviamo? Sì, perché la sentivo un po' metallica e vorrei che invece queste informazioni passassero con la qualità migliore possibile. Anche perché già ci sono le nostre voci che non si sente. Secondo me il disagio che noi abbiamo in questo momento gli ascoltatori non lo avvertono. Io ho una grattugia in gola, Nicoletta c'ha la febbre da 3 giorni e lavora lo stesso, come ma adesso mi metto a letto e weekend, risorgo lunedì. Vignola, ci riproviamo, mi sente? Sì, io la sento, buongiorno a tutti. Sì, eccoci qua, no, prima era un po' metallico modello Star Wars, quindi ecco, adesso abbiamo preferito riprovare a fare la il vogliamo sentire telefonico. Forte e chiaro. Allora, perfetto. Si stima che in Italia possano usufruire di questo bonus, questo sconto in bolletta, circa 3 milioni e mezzo di famiglie per il bonus elettrico, circa 2 milioni e mezzo di famiglie per il bonus gas. Esatto. Ecco, però in realtà a fronte di questi dati invece quante famiglie fino ad ora ne hanno approfittato, visto che questo bonus sociale esiste dal 2007? Esatto, molte meno di quelle che ne avrebbero diritto, perché il calcolo dell'autorità per l'energia che negli ultimi anni, da quando il bonus è entrato in vigore, soltanto 34% di chi ha diritto al bonus elettrico e il 37% di chi ha diritto al bonus gas ne ha usufruito, quindi circa 2 milioni di persone in nuclei familiari in 5 anni, quindi molte meno di quelle che avrebbero diritto a riceverlo. Certo, allora riproponiamo ai nostri ascoltatori i requisiti necessari per poterne fare richiesta. Intanto è una modulistica particolarmente complicata da compilare, perché magari questo scoraggia anche un po', se c'è un anziano che potrebbe ottenerlo, magari così non ha tempo, non ha nessuno che lo aiuta a farlo. Sì, diciamo che non è semplicissima e quindi il consiglio è quella di rivolgersi ai CAF, ai patronati, a chi diciamo aiuta già le persone nella compilazione dell'ISEE e della dichiarazione dei redditi, anche perché esistono dei documenti che sono necessari, che sono sia tecnici che fiscali, che è necessario presentare per poter ottenere poi il bonus sia gas che elettricità. Tra l'altro il bonus si concretizza proprio in uno sconto automatico in bolletta, se uno dovesse pagare 20 di bolletta elettrica ha uno sconto del 20% su questa. Sì, diciamo che più o meno è il 20%, ma è proprio un importo già prestabilito dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, che per quanto riguarda il bonus elettrico dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare, quindi si va da 80 euro per uno o due componenti, a 93 per 3-4 componenti e a 153 euro all'anno oltre i 4 componenti. Invece per quanto riguarda il gas è un po' più complicato, perché oltre alla numerosità del nucleo familiare dipende anche dall'utilizzo che se ne fa del gas, quindi soltanto acqua calda sanitaria, soltanto riscaldamento oppure tutto. Diciamo. Cioè c'è una discriminazione in questo senso, ci spiega meglio in che senso? Beh, chi ha il bonus? Che uso ne deve fare? Il bonus lo ottengono tutti quelli che ne hanno diritto, quindi che rientrano nei requisiti ISEE, ma la quantità del bonus, quindi l'importo erogato, mentre nel bonus elettrico è uguale per tutti, per quanto riguarda invece il gas dipende dall'utilizzo che se ne fa di quel gas, quindi se si usa soltanto per cucinarlo o anche per riscaldare casa, e dalla zona climatica, per un motivo molto semplice, perché un consumatore di Bolzano a parità di condizioni economiche con un consumatore di Palermo consuma più gas perché a Bolzano fa più freddo, quindi evidentemente, certo. per quel tipo di persone il bonus sarà più alto, perché ha un consumo più alto, certo. Quindi è normale che sia così. Un'ultima domanda, Vignola, c'è anche una particolare categoria di persone che possono ottenere questo bonus e sul quale vale la pena fare un focus specifico: le famiglie che hanno un disagio fisico, che sono affette da malattia grave, che magari hanno bisogno di macchinari che consumano in maniera particolarmente intensa energia. A queste persone il bonus va riconosciuto a prescindere dai requisiti ISEE fiscali? Esatto, in questo caso naturalmente il bonus sociale, quindi che rientra per quelle che è disponibile per quelle persone che hanno i requisiti economici, può aggiungersi al bonus per disagio fisico, ma il bonus per disagio fisico può essere erogato anche a coloro che non hanno le condizioni ISEE per ottenere il bonus sociale. Perché? Perché si parte dal presupposto che chi ha apparecchiature elettromedicali in casa che aggiungono del consumo va a pagare più di quello che avrebbe pagato se non avesse questi macchinari. Quindi per questa tipologia di utenti è previsto un bonus a parte, che è appunto il bonus per disagio fisico. Allora, non avete più scuse, potete farne richieste naturalmente a patto che abbiate i requisiti. Per tutte le famiglie che non riescono a raggiungere le informazioni radiofoniche o dai giornali, diamoci una mano, divulgate al massimo queste informazioni. Se siete a conoscenza di persone che ne hanno bisogno, fate sapere loro che questa opportunità c'è. Intanto le associazioni dei consumatori vanno sul territorio e hanno proprio avviato di recente questa iniziativa che si chiama Bonus a Sapersi, organizzata da... Ma carina anche, Bonus a Sapersi. È un progetto molto importante che coinvolge tutte le associazioni con i consumatori e che vede un incontro territoriale in tutte le province. Bene. Quindi batteremo a tappeto tutta l'Italia e lo stiamo già facendo per informare i consumatori, ma soprattutto le strutture che intercettano il disagio, su come informare i consumatori e chiedere quindi il bonus. Metteremo tutte le informazioni sulla nostra pagina Facebook. Intanto grazie molte Vignola di Unione Nazionale Consumatori, a Marco Vignola, buona giornata e grazie ancora, a presto. Grazie, arrivederci. Allora. E noi chiudiamo la settimana, come anticipato, parlando di un libro che ci aiuta a leggere le notizie di attualità e tutto quello che sta capitando intorno a noi con un altro paio di occhiali, con quelli della scienza, che è molto più vicino alla nostra quotidianità di quanti di noi possiamo immaginare, un po' come succede, Deborah, con l'economia e con la finanza. Certo. che noi pensiamo, spesso si tende a considerarle due molto mondi lontani, separati, e noi invece da 4 anni le abbiamo proprio intrecciate ormai in maniera inevitabile. Quando tu dici ma non pagate le bollette, le paghiamo, ma non andate a fare la spesa, ecco, no, siamo proprio lì. Allora, intanto salutiamo l'ospite di oggi, il professor Remuzzi, che abbiamo tanto atteso qua in studio. Sì, noi lo volevamo proprio qua. E lui è arrivato, si è fatto un po' desiderare, ma bisogna fare così. Grazie. Medico e direttore della struttura complessa di nefrologia e dialisi all'ospedale Papa Giovanni XXIII, è coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo, ma è anche scrittore, perché dopo La Scelta torna in libreria con Siamo Geni, Sperling e Kupfer. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Allora, a proposito di geni, evidentemente lei c'è anche il gene dello scrittore, perché se come leggo dal suo libro esiste quello della memoria, quello che ci rende socievoli o solitari, o addirittura quello della politica di cui parleremo, esiste o esisterà anche quello che di chi ama e sa scrivere. Sì, penso di sì. Credo che sia solo questione di studiarlo, la quantità di geni che ci sono nel nostro DNA è tale per cui possiamo trovare delle sorprese ogni giorno, e adesso quello che è cambiato tutto nella medicina, ma anche nei nostri rapporti nella società, è il fatto che sappiamo un sacco di cose, o possiamo sapere un sacco di cose del nostro DNA, perché lo possiamo studiare con dei sistemi ormai sofisticatissimi che riescono a dirci addirittura di noi tante cose che non saremmo mai stati capaci di immaginare. In questo libro, che è uno straordinario viaggio nel corpo umano in 44 brevi lezioni, lei, proprio partendo dalla sua esperienza personale, dai fatti, dalle storie, dai casi che ha incontrato nel corso della sua vita, accompagna il lettore nei misteri dei geni, cervello, batteri, anche nuovi farmaci. Ma il libro, che io devo dire ho divorato in un weekend, perché crea un po' di dipendenza questo libro. Vabbè. Capitolo dopo capitolo tu dici adesso chiudo, basta, ho fatto, invece continui. Te lo rubo subito appena terminata la trasmissione. Sì, e infatti vedi che è bello, è consumato. Esatto, è vissuto, ecco, direi. Vissuto. È un libro molto vissuto, perché è un libro per trovare risposte a quesiti diversi, ma è soprattutto un libro che fa nascere nuove domande. Professor Remuzzi, com'è nata l'idea di questo libro? Possiamo fare un passo indietro, perché prima avete citato, per esempio, ci sarà anche il gene dello scrittore, il gene della memoria. Pensate a quanti pochi professori pensano al fatto che gli studenti che hanno davanti in una classe possano avere o non avere il gene della memoria. Ritornare e ricordare, per esempio, una straordinaria funzione del cervello che si trova sotto il controllo di certi geni. Ce n'è uno che si chiama fattore neurotrofico. C'è uno studio che fa vedere che chi ha poca memoria e chi ha poca memoria recente, i ragazzi che non ricordano le tabelline, per esempio, o che non sanno citare Dante a memoria, non è che sono meno intelligenti degli altri, hanno una mutazione di quel gene lì. E però alla fine sono giudicati come gli altri che non hanno la mutazione, che hanno una memoria formidabile senza avere nessun merito. Allora, questa potrebbe essere anche una straordinaria scusa per gli studenti che arriveranno oggi, magari a casa, ho preso 3 di latino, non ho studiato i verbi. No, forse perché, però ci racconta quanto la differenza... Tutto il genoma è così, certo. però ci racconta anche quanto è complesso, e anche quanto chi ha posizioni di responsabilità, i professori di scuola, per esempio, dovrebbero avere un'idea di queste cose. Allora, intanto parte il domandone, perché abbiamo un domandone. Il professor Remuzzi sarà così gentile da omaggiarci di 3 libri, e c'è un domandone che è presente anche nel suo libro, in un capitolo del suo libro. Dante era guelfo o ghibellino? Così testiamo un po' la vostra memoria, ma c'è una ragione per cui il professor Remuzzi è andato a scomodare addirittura Dante, di cui parleremo. Intanto voi diteci, era guelfo o ghibellino? 800 24 00 24, al primo ascoltatore che darà la risposta esatta al nostro numero verde, a quello che manderà la prima risposta su WhatsApp. Professor Remuzzi, a proposito di geni, poco più di 16 anni fa Il 26 giugno del 2000 Bill Clinton annunciava al mondo che la sequenza del genoma, che è l'insieme di tutti i geni che stanno nel DNA del nucleo delle cellule umano, era stato completato. E dopo qualche giorno uno dei due artefici di questo gigantesco sforzo, Francis Collins, decise di farsi sequenziare il DNA. Anche lei lo ha fatto, lo racconta nel suo libro. Allora ci racconta anche a noi com'è andata, se lo rifarebbe, a chi lo consiglierebbe, a chi invece caldeggerebbe di astenersi dal farlo. Ma io l'ho fatto, sono stato contento di averlo fatto, l'ho fatto per conoscere, ma l'ho fatto soprattutto perché ritengo che sia un dovere provare a fare il proprio, ho pensato che fosse un mio dovere provare a fare il mio DNA per dire alla gente che cosa succede quando uno lo fa, anche in pratica come si può fare, perché non è così semplice. Per esempio, non ho trovato nessun medico che fosse capace di prescrivermi l'esame del DNA, tanto per dire come. E quindi ha dovuto farlo da solo. E quindi ho dovuto fare tutto un giro, insomma, io sono riuscito poi per leggerlo. Si tratta di mandare il proprio DNA solo in alcuni posti dove si può fare effettivamente, poi ci sono delle compagnie un po' in Europa, adesso ce ne sarà una anche in Italia e soprattutto negli Stati Uniti che lo fanno. Nel mio genoma è un po' macchinoso. È molto macchinoso e quindi sono stato contento di averlo fatto per poter dire alle persone: guardate che non è così semplice. L'ho raccontato in un pezzo che è uscito sul Corriere. Hanno trovato nel mio DNA 172.115 varianti. Cosa vuol dire? Queste varianti sono quelle che mi rendono diverso da voi, per esempio, e da mille altre persone che si prendono come standard di riferimento. Di queste ce ne sono 15.000 rare, 83 che potrebbero darmi dei problemi più in teoria che in pratica, qualcuna che è associata a malattie, che vengono fuori anche bene se uno studia la storia familiare, per esempio. L'analisi del DNA è riuscito a far rivalutare quanto sia importante la storia familiare. Io ho una predisposizione per i calcoli della colecisti, che non ho ancora avuto per adesso. Mia mamma è stata operata di calcoli della colecisti. Quindi il mio papà aveva la ferritina alta ed aveva un figlio medico, che avevano detto che fosse anche bravino, e lui però è sempre stato molto deluso che quel figlio lì non è mai stato capace di spiegargli perché aveva la ferritina alta, che è una proteina che c'entra col trasporto del ferro. Io ho un'alterazione in quella proteina che evidentemente ho nel DNA che codifica per quella proteina che evidentemente ho. Quindi basterebbe bene interrogare i genitori e sapere la storia familiare quello dà tantissime informazioni. Io per esempio rischio di meno della maggior parte delle persone per l'aneurisma dell'aorta, per il cancro del colon e per l'Alzheimer, però rischio di più per, come ho detto, i calcoli, l'osteoartrite, certi difetti della vista. Però noi la troviamo in ottima forma, direi, professor Remuzzi, che possiamo ancora farci numerose puntate e altri libri ci aspettano. Una cosa che vi posso dire che è carina è che io da ragazzo correvo i 100 metri come quasi nessuno della mia classe. No. Ho una anche variante. Atleta. No, solo i 100 metri, tutto il resto non sapevo fare nulla. Io veramente l'educazione fisica era una cosa terribile, però ero forte nei 100 metri. Ho una variante nel gene che codifica per alfa actinina 3 che è tipica degli sprinter professionisti. È una variazione di questi geni è tale che ti consente di fare sforzi intensissimi ma brevi. Per esempio, i maratoneti non ce l'hanno. Menea l'aveva sicuramente. Hai visto quante storie si imparano? Quanto dipendiamo dai geni, ma anche non solo dai geni, perché nel suo libro racconta che oltre ai geni c'è di più e c'è dell'altro. Ce n'è un'altra di storia, è bellissima. Si sa che bere due bicchieri di vino rosso riduce il rischio di malattie del cuore in certe popolazioni, ma non è così per tutti. Chi ha una variazione genetica, è proprio il mio caso, che non gli consente ci sono delle persone che hanno una variazione genetica, ed è proprio il mio caso, che non gli consente di trarre vantaggio dagli effetti favorevoli del vino rosso. Quindi, per quanto mi riguarda... Prosecco a go-go. Per quanto mi riguarda, il vantaggio... In un certo senso sì, perché l'alcol, indipendentemente dal fatto che sia rosso, che contiene delle sostanze che proprio sembrano essere protettive, però in certe persone che sono predisposte geneticamente... Per me, insomma, la scusa di proteggere il cuore non funziona per bere un po' di vino rosso, perché io non ho questa variante che mi consente di trarre vantaggio dal vino rosso. Allora, non possiamo naturalmente rispondere, darvi delle indicazioni sulle vostre varianti, ma possiamo aprire i nostri microfoni perché sicuramente avrete delle curiosità. Probabilmente una delle risposte possiamo trovarle nel libro. Abbiamo il professor Remuzzi qui con noi, con cui continueremo il nostro viaggeremo viaggeremo tra i batteri, viaggeremo nel cervello, parleremo di altruismo. 800 24 00 24, parleremo di quello che va anche oltre i nostri geni, e oltre i geni c'è di più, ci sono l'ambiente, le relazioni, i comportamenti, le esperienze. Siamo in fondo uno straordinario prodotto dell'integrazione di tutti questi fattori. Ma professor Remuzzi, ci sono condizioni in cui prevale l'azione dei geni e altre in cui prevale l'azione dell'ambiente, intendendo ambiente anche esperienze, educazione, storie di vita? Ci può fare qualche esempio? Ma in realtà è difficile fare qualche esempio, perché più si studia, più ci si rende conto che non ci sono comportamenti che dipendono dai geni e comportamenti che dipendono dall'ambiente. Ci sono piuttosto delle predisposizioni genetiche che consentono, in certe circostanze ambientali particolari, per esempio, di sviluppare certi modi di fare piuttosto che altri. Ed è vero anche il contrario. Per esempio, capita che l'ambiente possa influenzare, attraverso delle modifiche che i geni chiamano, i medici chiamano epigenetiche, la funzione dei geni. Quindi noi pensiamo che questo, non lo so, abusare di alcol, per esempio, per ritornare ad alcol dei ragazzi, dipende dal fatto che frequentano degli altri ragazzi che abusano di alcol. Però ci sono delle influenze genetiche che si manifestano delle influenze ambientali che si manifestano attraverso alterazioni che si chiamano epigenetiche, cioè un determinato gene viene indotto ad esprimersi in un altro momento piuttosto che in un altro, o a esercitare una funzione di soppressione di certe funzioni in rapporto all'ambiente. Quindi la domanda è perfetta, la risposta è c'è un rapporto tra geni e ambiente che è molto molto intricato e complesso, ed è soltanto continuando a studiare che si potrà avere una risposta. Ma certo non c'è qualcosa che dipende solo dall'ambiente o qualcosa che dipende solo dai geni. Le due cose sono estremamente legate. Domanda per il professor Remuzzi, che arriva via WhatsApp. Ma il DNA può variare se si fanno delle trasfusioni di sangue frequenti o se si subisce un trapianto di organo? Ci scrive Giuseppe proprio da Bergamo. Bella domanda. Noi andiamo a sentire che cosa succede sui mercati, poi torniamo di nuovo insieme, parleremo anche di 9 mesi straordinari che condizionano molto la nostra salute da adulto, sono i 9 mesi nella pancia, e poi anche degli scoop che leggiamo anche nel libro del professor Remuzzi, delle storie molto intricate legate a delle scoperte, passano anche attraverso dei tribunali, di tutto e di più leggeremo in questo libro, e aspettiamo naturalmente le vostre domande. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Questo tema dei vaccini va affrontato una volta per tutte. L'esempio che ha dato l'Emilia Romagna mi sembra molto serio. Noi abbiamo bisogno che, in particolar modo nei nostri asili nido e nelle scuole materne, perché prima di essere sindaci siamo genitori, ci sia la chiarezza e ci sia un grande investimento sulla scienza e sulla ricerca, non sulla gli aspiranti alchimisti e gli apprendisti stregoni, perché è fondamentale che le nostre scuole e i nostri asili siano con i bambini vaccinati. Riprendiamo il passo con questo estratto di Renzi, che ha parlato ieri a Bari all'ANCI davanti ai sindaci italiani. Il tema dei vaccini è un tema caldo. Abbiamo aperto questa seconda parte di Cuore Denari dicendo che avremmo letto le notizie di attualità, quello che capita intorno a noi con gli occhi della scienza, prendendo spunto da un bel libro di Giuseppe Remuzzi, Siamo geni, uno straordinario viaggio nel corpo umano in 44 brevi lezioni, libro che vi consiglio di leggere, perché ci dà modo di capire quanto la ricerca, i risultati della ricerca siano molto più vicini alla nostra quotidianità di quanto noi possiamo immaginare. Cioè ci sono gruppi di ricerca, persone che dedicano la loro vita a studiare, a cercare di capire che cosa ci può fare stare bene, che cosa ci può evitare di ammalare o di curare nel modo migliore, non sono in delle torri di avorio, ma sono molto più vicini a noi. Questo libro ci racconta quanto i risultati della ricerca e della scienza ci possano aiutare anche a capire dalle nostre scelte politiche, parleremo, cioè il gene della politica, all'alimentazione, a come proteggerci, a capire di che cosa, verso che cosa siamo più vulnerabili. Professor Remuzzi, a proposito di scienza e di vaccini, vuole fare un commento all'invito di Renzi? Beh, il commento è che questo è un invito impeccabile, va assolutamente seguito, indipendentemente dal fatto che uno sia un estimatore di Renzi o non sia un estimatore di Renzi. Lo devono fare anche quelli che Renzi ha detto: capisco di non essere simpatico a tutti. Anche quelli a cui non è simpatico devono esattamente fare quello che lui ha detto, perché questa è una raccomandazione fondamentale. E tra l'altro è molto bello che una persona che è in una posizione così istituzionale e così importante si sia preso la responsabilità di dire alla gente: vaccinate i bambini. Se non vaccinate i bambini, voi mettete questi bambini ed altri bambini a rischio di ammalarsi di malattie gravissime e fate rischiare il nostro paese. Potrebbe ritornare la poliomielite, che non sappiamo più nemmeno che cosa sia, potrebbe ritornare il vaiolo. I vostri bambini potrebbero morire di morbillo. Una volta si moriva di morbillo, nei paesi poveri si muore ancora di morbillo. Centinaia di migliaia di bambini muoiono di morbillo nei paesi poveri perché il vaccino non è a disposizione. Non c'è niente in medicina che abbia salvato tante vite, parliamo di milioni di vite umane, come il vaccino. E gli effetti negativi del vaccino non ci sono. Quelli che sono stati riportati sono o falsi o enfatizzati. Quindi mi raccomando, e anche queste cose, queste associazioni di consumatori, queste cose che fanno delle cose contro la scienza e contro la salute, sono delle cose per cui dovremmo prenderci tutti quanti la responsabilità di dire: queste cose non si possono fare. Professor Remuzzi, siamo in periodo di influenza. A proposito di vaccini, si prevede sarà particolarmente agguerrita. Ogni anno i medici calteggiano la vaccinazione agli anziani, alle persone con patologia cronica, ai soggetti a rischio. C'è chi seguirà le indicazioni, chi farà di testa propria, chi penserà che è tutto un gioco delle aziende farmaceutiche, che invece si curerà con gli antibiotici di influenza, di virus, di batteri, di antibiotico resistenza. Lei parla diffusamente nel suo libro in numerosi capitoli. Ci dà qualche indicazione? Partiamo dall'influenza e dal raffreddore che abbiamo io e Deborah, che secondo questo studio molto interessante citato nel suo libro, che un sorriso potrebbe difenderci da un raffreddore. Ma professor Remuzzi, ma noi ridiamo sempre, non siamo state protette, non abbiamo riso sufficiente. Dobbiamo preoccuparci per l'influenza. Ma l'influenza, molte delle influenze, per esempio, ci siamo molto spaventati da un'influenza H1N1 che c'è stata qualche tempo fa, che è partita da un singolo ammalato di Hong Kong e poi si è diffusa in Africa, in Medio Oriente, in Asia, dappertutto, negli Stati Uniti, dove circolano per altri molti altri virus. Quella dell'H1N1 non era un virus, per esempio, particolarmente pericoloso. Però l'influenza è pericolosa in quanto molti virus che sono simili all'influenza dell'uomo circolano negli animali, nei polli, nei maiali, per esempio. E se questi virus si mescolano tra loro, diventano virus che hanno un'aggressività completamente diversa e anche pericolosa. E dal momento che i virus adesso viaggiano in aereo... Sì, è molto divertente. Nel capitolo lei scrive: prima viaggiavano in nave, adesso viaggiano in aereo. Molto più comodi e più arrivano subito a destinazione. E prima ancora non viaggiavano affatto. Prima ancora c'erano delle malattie, per esempio tante malattie sono state portate in Sud America dagli spagnoli, ed è proprio perché gli spagnoli hanno portato batteri e virus in Sud America che hanno vinto la guerra contro gli indios, perché gli indios erano molto più forti, ma quando sono arrivati lì si sono ammalati di colera che loro avevano trasportato attraverso le navi. Adesso i virus viaggiano in aereo, quello si fa capire, ci si rende conto molto facilmente di come è difficile. Avete parlato di industria farmaceutica, pensate che l'industria ogni anno mette a disposizione dei nuovi vaccini, adattandosi alla modificazione del virus, che è rapidissima. E quindi dobbiamo essere grati a chi fa questo. La storia, l'industria farmaceutica ha delle pecche, su questo siamo sicuri, non abbiamo dubbi, ma certamente ha dei meriti enormi. E uno dei meriti enormi è essere riusciti attraverso quel tipo di ricerca ad avere liberato il mondo da tante malattie. 800 24 00 24. Naturalmente, appena parliamo, si pronuncia la parola vaccini, arrivano molte telefonate, arrivano tantissime mail e sms degli ascoltatori. Le leggo quello in tempo reale: alle 11.43 è arrivata via WhatsApp. Il morbillo l'ho avuto da piccolo e sono ancora vivo. Ma torneremo a parlare di vaccini. Professor Remuzzi, queste considerazioni lei le avrà sentite fare tante volte. Io mi sono ammalata di morbillo, sono vivo, allora perché vaccinare i bambini? Dovremo sicuramente ritornare sul tema vaccini, se vuole fare una battuta, perché vorrei dare anche la parola agli ascoltatori che le chiedono informazioni. Professore? Sì, certo, un sacco di gente fuma è ancora viva, però di quelli che fumano tanto, se voi andate a vedere qual è la vita media di chi fuma tanto e di chi non ha mai fumato, c'è una differenza enorme. Uno si butta dalla finestra, non muore sempre, delle volte sì, non è che il morbillo faccia morire necessariamente, ma ci possono essere delle complicazioni batteriche del morbillo. Il morbillo è una malattia pericolosa, è molto importante che i vostri bambini invece non si ammalino di morbillo. Certo, 9 su 10 guariscono, ma 1 su 10 può avere delle complicanze gravi. Allora, adesso andiamo alle informazioni sul traffico, però chiediamo a Loredana da Roma, che ci sta aspettando da un po', di anticipare la sua domanda, la sua osservazione e considerazione. Loredana? Sì, buongiorno. Eccoci. Io volevo chiedere questo. Ho avuto mia mamma e mia nonna che hanno avuto l'Alzheimer. Io ho 74 anni. Volevo sapere se potevo fare attraverso questo DNA, sapere se potevo essere portatrice sana oppure e se potevo fare qualcosa per... Allora, quello che può fare è restare con noi, accompagnarci a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, e poi il professor Remuzzi risponderà a Loredana e in questo modo risponde a tanti ascoltatori che hanno fatto una domanda molto simile. A tra poco. Cuore e denari. E siamo tornati insieme oggi in studio con noi Giuseppe Remuzzi, il professor Giuseppe Remuzzi, però lo dico senza prof, perché qua in veste di scrittore. Siamo geni, uno straordinario viaggio nel corpo umano in 44 brevi lezioni. Professor Remuzzi, un libro che lei ha scritto, chi gliel'ha fatto fare, insomma? Con tutto quello che c'è da fare come coordinatore delle ricerche del Mario Negri, insegna all'università, è responsabile di un reparto. Ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro con questo libro, come con la scelta. Ma quello che ho voluto fare attraverso questo libro è rispondere, per esempio, al vostro spettatore, al vostro ascoltatore che un attimo fa ha chiesto: ma se c'è uno che dice che i vaccini fanno bene, bisogna anche prendere uno che dice che i vaccini fanno male. Ecco, perché purtroppo la gente non ha l'idea che la scienza è una sola. Ci sono delle cose che non sappiamo, ma ci sono delle cose che sappiamo, ci sono delle cose che abbiamo fatto, e quelle cose sono assolutamente chiare, non sono materia di discussione. Non è materia di discussione il fatto che i vaccini siano il passo avanti più importante della medicina del mondo moderno. Non c'è uno scienziato che può dire che questo non è vero. E io ho cercato in questo libro di diffondere, dare la parola alla ricerca in modo che la gente abbia più elementi per poter ragionare, perché i ragionamenti molto spesso sono emotivi, e tutte queste persone che dicono ma chiamiamo anche uno dall'altra parte non hanno idea dei dati che sono a disposizione della scienza. C'è un messaggio che... Sì, no, era carino questo, perché è proprio un messaggio cuore denari, quello di Riccardo. Il vaccino è come l'assicurazione dell'auto, dice. Forse non avrai mai incidenti, ma se ne avrai rimpiangerai di non esserti assicurato. Le piace, sì, questo parallelo? È questo è di Riccardo. Parte subito il libro. La prossima volta parte che faccio una riedizione di questo libro glielo metto, perché questo è veramente bellissimo. È esattamente così. Riccardo, grazie, vede, è già nel prossimo libro di Beppe Remuzzi. Professor Remuzzi, la domanda della nostra ascoltatrice prima delle informazioni sul traffico: la mamma, la nonna malata di Alzheimer, ha 74 anni, ci dice cosa devo fare, dove devo andare, come posso capire se... potrò ammalare, 74enne. Mamma e nonna malate di Alzheimer rappresentano certamente un fattore di predisposizione anche per la nostra ascoltatrice, che però potrebbe essere protetta da geni che ha ereditato dal papà, e noi speriamo che sia così. Lei vorrebbe fare l'analisi del DNA per sapere se c'ha i geni che possono predisporre all'Alzheimer. Sì, vale la pena. Premetto che i geni che sono predisponenti all'Alzheimer sono tanti, quindi l'analisi è complicata, però certamente si possono avere delle indicazioni, e con queste indicazioni uno che cosa fa? Ma intanto può fare tante cose, può fare attività fisica, può ballare, può ascoltare la musica. Ci sono dei dati che fanno vedere che chi fa una grandissima attività fisica, chi ascolta la musica, chi canta, chi fa teatro, chi balla, ha meno facilità nell'andare incontro a questa malattia. Poi può soprattutto, e questa è la cosa più importante, pensare a una vita che deve prevedere anche il fatto di avere un certo tipo di assistenza qualora sviluppasse la malattia, oppure può essere resa tranquilla dal fatto che la maggior parte delle varianti genetiche che predispongono all'Alzheimer lei non le ha, perché ha ereditato degli altri geni dal papà, e questo è una cosa che certamente potrebbe tranquillizzarla. Ci sarebbero tanti capitoli e tanti spunti che mi piacerebbe discutere e commentare con lei per informare i nostri ascoltatori. Su questo libro sicuramente dovremo tornare, ma c'è il gene della politica che ci permette anche un pochino di collegarci al nostro domandone. Esiste il gene della politica, professor Remuzzi? Insomma, in un certo senso esiste anche il gene della politica. Una cosa, per esempio, interessante è il considerare che di solito la gente va orgogliosa delle proprie convinzioni politiche. E ci sono delle persone, per esempio, che pensano che il nostro modo di vedere le cose sia quello giusto. Chi la pensa in un altro modo di solito sbaglia, non capisce, non si aggiorna. E quando hanno fatto uno studio, però, certi ricercatori che hanno poi pubblicato questi lavori su Nature, hanno detto, ma guardate che noi dovremmo essere tutti meno, c'è una parola che si chiama kutzpah in inglese, vorrebbe dire un po', non c'è una bella traduzione, insomma, chuspak vorrebbe dire spudorato, qualcosa del genere. Insomma, noi dovremmo capire che le cose del mondo un altro le può vedere in modo diverso, non perché sia meno intelligente o meno colto, ma perché è fatto in modo diverso, perché ha dei geni diversi. E come facciamo a saperlo? Lo facciamo coi gemelli. Per esempio, i gemelli identici quasi sempre hanno le stesse idee politiche, mentre gemelli che non sono fratelli, che non sono gemelli e che di solito condividono solo il 50% dei geni, al contrario degli altri che condividono il 100%, e quelli lì hanno di solito o possono avere idee politiche completamente diverse. Ci sono degli studi fatti molto bene che fanno vedere proprio come le idee politiche possono essere le stesse in chi ha lo stesso corredo genetico. E allora è chiaro che tutte le discussioni che facciamo alla sera con i nostri amici a tavola possono prendere una piega completamente diversa se uno si rende conto che non è che l'altro sia stupido se vota sì o no al referendum, ma semplicemente ha dei geni diversi. E se l'altro, il nostro amico, non si ricorda magari la nozione, è perché non ha il gene della memoria da cui siamo partiti in questa nostra chiacchierata, ma mi sembra che invece di memoria e abbiano studiato molto i nostri ascoltatori, perché prendendo spunto dal titolo di un capitolo del libro del professor Remuzzi, Dante era guelfo ghibellino, insieme a Deborah abbiamo confezionato il domandone di oggi per far ricevere a casa. Abbiamo pensato tre libri, uno su WhatsApp, uno SMS, uno al numero verde. Uno l'abbiamo dato a Riccardo, chissà se lo diamo anche a Susanna da Firenze. Susanna, buongiorno. Buongiorno. Da che parte stava Dante? Sì, poi da Firenze. Allora, Dante era guelfo di parte bianca. Certo, Susanna è pure di Firenze. Se non lo sa lei. Ha giocato in casa. Professor Remuzzi, grazie. Allora, arriva il libro, speriamo con dedica. Professor Remuzzi, in un minuto, meno di un minuto, salutiamoci magari con un messaggio, con un'idea, una curiosità che i nostri ascoltatori si portano a casa un po' come il sapore del suo libro. Siamo geni. Beh, la mamma, quello che succede in gravidanza, quello che la mamma mangia in gravidanza, l'attenzione alla buone abitudini di vita in gravidanza influenzerà la vita del bambino. E un'altra cosa straordinaria uscita in questi giorni su Nature, l'allattamento al seno fa in modo che certe cellule staminali del latte della mamma vanno nello stomaco, poi vanno nel sangue, poi si localizzano in certi organi, quelle del cervello che vanno nel cervello diventano cellule del cervello, quelle del fegato diventano cellule del fegato. Insomma, la mamma allattando al seno protegge i bambini attraverso un meccanismo straordinario che abbiamo scoperto in questi giorni. Insomma, siamo geni anche grazie soprattutto per le nostre mamme. Questa l'ho aggiunta io. Grazie professor Remuzzi. Noi torniamo lunedì, buon weekend a tutti.